L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Alle 18.30 c'è un traffico della Madonna, per tornare a casa ci vuole 1 ora in più. Fa lo stesso, meno male che c'è la zanzara che ci accompagna nel viaggio. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ma perché la mia compagna mi chiama sempre alle 18.30 quando inizia la zanzara? E dai, e chiamami alle 19 quando c'è il telegiornale, no? Non è il telegiornale, non è il telegiornale, cazzo, dai. Le basi almeno, no? Quale telegiornale? Lorenzo, senti questo, senti questo. Sentiamo, sentiamo. Senti questo, senti questo. Ma quante storie per questo nigeriano, gli hanno detto scimmia, e fra l'altro è anche vero. Non doveva prendere un palo e reagire, doveva rispondere a parole. Gli ha detto male perché ha trovato uno più forte di lui. E basta, no? Hai sentito anche la voce? Hai che sentito tipo, la che voce? Tipo della nonnina o non so cosa. Beh, nonnina, non sembrava una nonnina questa qua, mi sembra non sì, giovanissima, ma neppure anziana. Una signora del Ku Klux Klan, sarà, non ho idea di cosa sia, una razzista, ma che come si definisce? Una razzista, che roba. Beh, è abbastanza pesante sta cosa, sì, abbastanza pesante. Devo dire anch'io abbastanza pesante. Ma chi è? Una che ha telefonato lì al... Libertà di espressione, libertà di espressione. Sì, va bene, libertà. bisogna bruciare tutti gli fingeri. No, ma non ha detto questo, ma non ha detto questo, non ha detto questo. Allora, a proposito sempre di fermo, restiamo fermi a fermo. Restiamo fermi a fermo. Battutona delle 18.39. Giusto. La deputata o senatrice, non mi ricordo, ma è uguale, dei 5 Stelle Bencini in Parlamento. A un certo punto piange per la decisione da parte della compagna del nigeriano morto di donare gli organi. Però poi aggiunge pure una cosa incredibile. Senti, incredibile. Mi premeva solamente aggiungere che a mio avviso è stato un ulteriore femminicidio, perché comunque si è offesa una donna, la si è resa vedova, e questa donna ha deciso di donare gli organi del marito. Organi andranno degli italiani, quindi a mio avviso un grandissimo gesto d'amore. Ma al di là della decisione degli organi, che va benissimo, ma che c'entra il femminicidio, scusa? No, no, con tutto il rispetto, ma che c'entra il femminicidio? Quel ragazzo, quel signore era un rifugiato, giusto? Bene. Sì, rifugiato. La parola rifugiato vuol dire che ha trovato rifugio in Italia. Sì, ha trovato rifugio in Italia, sì, certo. In Italia, ha trovato la morte in Italia, non ha trovato sì, rifugio. Certo, lo sappiamo. Cioè, non aveva la morte e in più ha trovato la morte e lui darà la vita. Hai capito? Vabbè, lui ho capito, perché lo spieghi a me? Non ho capito, perché lo dici anche a me? No, non lo sto spiegando a te. Lo sto spiegando alla signora che... Lo sto spiegando a quella razzista che ha telefonato, quella signora, non so neanche che ha espresso faccia, le sue idee, ma ci ha notificato il suo pensiero. Ci ha notificato, A proposito di Italia razzista o meno, a proposito l'Italia come il Ku Klux Klan, dove una persona di colore quando attraversa la strada o quando cammina per strada, secondo il racconto di alcune persone, è continuamente in pericolo. Così ci dicono soloni di tutte le specie. Bene, ieri, proprio nella tua trasmissione, si è assistito ad una scena incredibile. Il signor Gennaro Migliore, ex Rifondazione Comunista, poi passato Armi e Bagagli con Renzi, e qui mi taccio perché è un'altra questione, no? È un'altra questione. Ha detto che i giornali devono scrivere che è una vile aggressione, perché altrimenti caldeggiano la violenza, eccetera, eccetera. C'era anche Vittorio Nefeltri che ha detto che invece il razzismo non è diffuso in Italia. A un certo punto scazzano. Queste sono le opinioni di questo signore che io... sottosegretario! Non ho tanta voglia... Sì, perché me frega, se potrebbe essere anche Dio in terra, ma se dice delle scemenze, dice delle scemenze. Accusare il giornale mi sembra un'operazione così, così modesta dal punto di vista della serietà e anche dal punto di vista intellettuale, per cui non ho neanche voglia di controbattere. Mi sembra una così, mi sembra... Minaccia i nostri... Ma lei perché parla... mi interrompe? No, lei oltre a essere... Lei oltre a dire stupidaggini è anche maleducato, sì, perché sì, mi interrompe. Per cui io non voglio parlare con un cafone, chiaro? Io con i cafoni non parlo. Cosa vuole? Che argomenti con un signore del genere che spara sciocchezze senza neanche sapere cosa sta dicendo, non sa neanche con chi sta parlando, si riferisce genericamente a un giornale, qual è il giornale che fomenta il razzismo? Ma stiamo scherzando, ma lei veramente sta bene? Lei stasera no, forse ha abusato di alcol, non so, mi sembra veramente assurdo. Stupendo, meraviglioso. Feltri a Migliore, lei forse stasera ha abusato di alcol, non sono i giornali che incitano al razzismo, eccetera, eccetera. Ma non ti faccio prendere posizione, Parenzo, per carità. Ma... No, ma che devo dire? Mi dispiace che il direttore se ne sia poi andato. Ma no, ma che ti dispiace? Sei contentissimo, aspetta, no, aspetta. Quello mi dispiace perché c'avevo tutta un'altra parte di dibattito. Sei contentissimo! No, non dire, non negare con me che sei contento, non negare no, con me. No, ma non mi dispiace negare. Che avrei preferito averlo in battaglia piuttosto, che più battaglia di questa che volevi? La cosa, no, la mitra, che volevi? Più battaglia di questa, scusa. Vai. Che cosa continuo a essere interrotto, sento delle voci sgradevoli nel mio auricolare, gente che cerca in ogni momento di interrompere, ma insomma, ma come si fa, prego a stare in una trasmissione andiamo così avanti. Imbecille, io sinceramente vi saluto, vi auguro una buona serata, date degli imbecilli a tutti quelli che volete, ma non coinvolgetemi in queste cose così meschine, così volgari, siete persone volgari. A chi si riferiva? Non capisco, a voi, a tutti, aspetta ma... ancora. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e vi auguro soprattutto di fare un corso di buona educazione. No, direttore, magari rivolgendovi alle vostre mamme. No, il problema. Ciao, vi saluto. Il problema, no, direttore, va, aspetti problema, un secondo, sì. Si rimetta. Ma ecco. Ah, ragazzi miei. Giovanardi dice: perché non abbiamo commemorato anche l'americano a Roma? Da un certo punto, scusa? Signor Giovanardi dice: perché, siccome il governo... Ma intanto tu dici dei nomi che io davvero faccio fatica a ricordare. Giovanardi. Vabbè, adesso non esagerare. L'hai citato anche ieri questo Giovanardi. Sì, l'ho citato anche ieri, sì, perché ieri è stato attaccato alla Camera. Ma Nobel è uno di quelli che era candidato al Nobel. No, no, nessun Nobel, nessun non Nobel. È il Nobel. No, nessun Nobel, nessun Nobel. Ah, il premio Strega, no, nemmeno. No, è un ex senatore, adesso deputato della Repubblica, prima con Berlusconi, poi con Alfano, adesso da solo. Ho capito, Giovanardi si chiama. Sì, no, da solo, no, in un altro gruppo parlamentare. Comunque, signor Giovanardi dice, ma da questo punto di vista non ha torto, eh. Perché non abbiamo commemorato anche l'americano morto a Roma? Cioè, il governo ha commemorato, si è mobilitato per questa storia di fermo, mentre, diciamo, di omicidi, di situazioni gravi, eccetera, eccetera, ce ne sono dappertutto ogni giorno. Sì. Tre giorni fa a Roma è stato ucciso un giovane americano di 18 anni da un balordo. È xenofobia? L'abbiamo commemorato in Parlamento? No. Perché? Perché era americano? Ah, Allora, un'altra roba che mi è sembrata piuttosto strana, io la critico sempre questa cosa qua. Ti ricordi quando tempo fa un eurodeputata di Forza Italia, Alicia Ronzulli, fu massacrata per aver portato la figlia al Parlamento Europeo? Poi sì, trasformò come questa cosa in una grande cosa mediatica, le copertine dei giornali stranieri. Vittoria, certo. Sì, sì, no, Vittoria, certo. Il neo sindaco di Roma, Raggi, ha portato il figlio in aula, facendogli alzare la mano, facendogli spingere i bottoni lì dello scranno, eccetera, eccetera, proprio nella prima seduta, a uso e consumo, diciamo la verità, a uso e consumo dei media, cioè dei fotografi, delle riprese, eccetera, eccetera. Su questo non c'è nessun dubbio. Cioè, se porti tuo figlio alla prima seduta, è chiaro che, non so se ci sia un disegno prima, ma insomma, no, è indifferente questa cosa qua. Comunque poi la fotografia della prima seduta del Consiglio Comunale di Roma è il sindaco col figlio, porta il figlio in aula. Il mitico abate. Senti, senti, chi è? Il marchese? Chi è? Il marchese, lui, sì. Una serie di mancanza di eleganza istituzionale. O esponi i bambini ricattando, anche Stalin, le volevo dire, esponeva una bambina che si chiamava Engelsina, oppure rimandi alla famiglia. E questo è inaccettabile. È Stalin adesso, dai, Stalin, non esageriamo. Tutto il giorno viaggiare con Cruciani alla radio da ascoltare, anche se col traffico mi sento male, ho Parenzo da mandare a cagare. Tutto il giorno viaggiare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Allora, lascio a voi commentare, non mi sono anche rotti i coglioni di queste cose qua, David, cioè di commentare le notizie che continuano ad arrivare a Milano a un anno, un bambino di nemmeno un anno che pesa come un neonato praticamente, vegano, salvato dai medici, dal tribunale, addirittura tolto, temporaneamente affidato all'ospedale, cioè praticamente tolto ai genitori, e praticamente è arrivato in ospedale al limite della sopravvivenza. Adesso molti ci diranno no, non è la questione, non è che era vegano, non è questo. Fatto sta che queste notizie continuano ad arrivare e mi sono anche stancato di commentare. Cosa volete che commenti una cosa del genere? Poniamo che sia davvero così, cioè che è vegano. È no, arrivato... La cosa strana è che è un bambino di un anno, no? Sì, che avrebbe sì. fatto una dieta vegana. In tutto quest'anno questi genitori non l'hanno portato da un pediatra che verificasse. Infatti gli hanno crescita. Tolto. Infatti gli hanno tolto. Cioè, fatto sta che gli hanno là tolto. Dei vegani, al di là dei pesava vegani. Come un bambino di 3 mesi, con i valori sballati. È vero che aveva dei problemi già al cuore questo bambino, ma insomma, e ragazzi. Gli fai fare pure la dieta vegana. Allora, il fratello del, di quello che ha ucciso il nigeriano, dice che uno che se vede un negro gli tira le noccioline ma lo fa per scherzare. Questo è il fratello? Il fratello, sì. Mio fratello, è una bella famiglia. Senti, mio fratello è sempre stato comunista. Come fa a essere razzista se ha un amico del cuore maghrebino? È generosissimo. Diventa violento solo se lo vai a cercare. Vabbè, qui, ho capito. Questo è normale. Senti, senti questa cosa che ha detto. Quei due, Emanuele e la moglie, potevano starsene a casa. Mica li abbiamo chiamati noi in Italia. Certo. Gli immigrati rubano. Non è giusto che le leggi italiane li difendano. Noi dovremmo venire prima. E la parola scimmia è solo una battuta. Domenico Crotone, iniziamo, vai Domenico. Sì, pronto? Dimmi Domenico, dimmi. Ciao, buonasera Giuseppe. Volevo dirti una cosa per quanto riguarda quello che è successo in America. Ovviamente la mia era una provocazione, che ho detto che i cecchini hanno fatto bene. No, non so qual è la provocazione perché ancora non me l'hai detta, però comunque allora, dimmi. Io ho detto che i cecchini in America hanno fatto bene a uccidere i poliziotti. Vabbè, ma sei un cretino, se uno è un cretino, è un cretino. Cioè, perché avrebbero fatto bene a sparare alla polizia? Sì, spiegami. No, la mia provocazione è questa qua. No, non è una provocazione, è una puttanata. Non è una puttanata, scusa. Non è una puttanata. Cioè, i cecchini hanno fatto bene a sparare alla polizia, d'accordo, va bene. No, ti volevo leggere una cosa, se mi devo un attimo di tempo. Allora, in zone in cui la nostra gente è l'abituale bersaglio della brutalità e il governo sembra incapace o non disposto a proteggere i neri, dovremmo organizzare dei club di tiratori scelti per difendere la vita e la proprietà dei nostri fratelli. Ma questo chi l'ha scritto? Questo l'ha scritto Malcolm X nel 1964. Vabbè, ma non è. A parte che era un'altra epoca. A parte che era un'altra epoca. Io volevo dire questo concetto. Cioè, poi Malcolm X non è che non avesse buchi neri nella sua biografia, il signor Malcolm X. Non è che mai citato per forza. Non è che mai citato Gandhi. Per farti capire quanto poteva essere. Quanto è. Reale la cosa. Se però dal 64 al 2016, ancora in America, esiste. Sì. esiste la violenza della polizia sui neri, sì, sicuramente. Sicuramente esiste questa roba. Secondo voi. Cioè, ma non c'è niente di normale. Tu hai detto un'altra cosa, che i cecchini hanno fatto bene a sparare alla polizia. Quello l'ho detto giusto per una provocazione, non è normale. Giusto per una provocazione, giusto per una provocazione. Dai, su, ragazzi. Giuseppe, provincia di Torino, dai. Salve, buonasera. Dimmi. Volevo fare solo una domanda veloce al signor Parenzo. Eccoci qua, carissimo, prego. Ecco, no, carissimo, non abbiamo fatto la scuola assieme. No, per fortuna, certo, lei ha fatto quelle dell'obbligo. Andiamo avanti. Lei è un supponente. Comunque, visto che è così... Ma non avete nemmeno parlato, perché gli dai subito? No, ma si capisce già che comunque diamo la parola a chiunque qui. Guardi, mi diverto un mondo solo a sentirla. Lei ogni tanto però si guarda allo specchio. Sì. No, ma ogni giorno penso. Domanda. La mattina ti guardi allo specchio, Davide, quando ti alzi. Tutte le mattine. E che cosa vedi? Quanti specchi avrà rotto? No, ma non credo che hai rotto specchi a casa tua. Aspetta, Giuseppe, voglio chiedere questa cosa qua. Se Parenzo ha rotto specchi a casa tua, è importante saperlo, no? Sì, le ho rotti tantissimi. Sentiamo. Ma perché le hai rotti? Scusa, non ho capito. No, ma sentiamo, perché è importante che chiunque abbia diritto di parola. Quindi, sempre, quello sempre. Ecco, la parola miserabile. Dica, sentiamo. Vai. Parenzo, è il tuo momento, forza, 40 secondi. Il fattaccio che è accaduto nel Sermano, secondo lei, potrà ripetersi in Italia... con l'avvento di centinaia di migliaia di ulteriori extracomunitari che sbarcano in Italia? Ma cosa c'entra? Scusa, non questa credo. È una domanda molto intelligente che lei ha fatto. Certo. Quanto ci ha messo a pensarla, a cogitarla? No, no, siccome lei è il difensore di tutti, mi dica lei cosa propone di fare. No, ma il governo, scusami, il governo non riesce a fare scusami nulla. Giuseppe, dimmi però che cosa ne pensi tu di questa vicenda. Evidentemente tu pensi che la responsabilità non sia di quello che gli ha detto Scimmia, ma sia No, la responsabilità è totale di quel signore. E allora? Assolutamente. La responsabilità se c'è una gestione di migranti se ce ne sono troppi, tu dici, se ce ne sono troppi. No, sono troppi e incontrollati. E allora? E sono alla mercé di delinquenti di provocatori. Di incontrollato, qui c'è soltanto quel suo neurone che ha trovato attività telefonata. Ma lei sta parlando con una che ha 74 anni può esserle. Ma quello non c'entra una mazza, scusa. Volevo dire che io ripudierei un nipote come Parenzo. E perché? E perché lo ripudierei? Ma non vede che fa le battute stupide tutti i giorni con la gente che la segue la trasmissione. Scusa, ma scimmia africana quando ma se una persona intelligente ogni tanto. Sì, ma se uno ti dice scimmia africana vattene, secondo è sbagliatissimo. È sbagliatissimo, però bisogno di parlare. Però quello non doveva stare in Italia. Quel tizio... No, il problema è che più ne vengono, più questi fatti possono ripetersi. Quello era un rifugiato che era spasso con sua moglie per mano. Ma sì, ma l'abbiamo detto. Lei, ma ormai allora, ragazzi, fermi lì. Allora, Carlo Taormina, l'avvocato professore Carlo Taormina, l'arrestato di fermo ha agito per legittima difesa. Giovanardi aveva ragione. Solito immigrato violento, Alfano sempre inopportuno. Subito difesa a Taormina, subito. Avanti Parenzo, alla riscossa, Zanzara Rossa, trionfe. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Cruciani, mentre una che ti sta mandando un messaggio sta dicendo che sei uno stronzo, te lo dico anch'io che sei uno stronzo, perché fai sempre come cazzo te pare. Che significa che la gente ti dice non mi interessa, non mi interessa? Se parli di certe cose la gente risponde a queste cose, interessa alla discussione. Che significa non mi interessa? E gli chiudi il telefono. Ma come cazzo stai messo? Tu e quell'altro che va a cagare 8. siete una trasmissione, ma di The Free è poco. No, questo se la prende anche con te, David, sì, perché alle 8 tu ogni tanto, non so perché, da quando c'è questa, questa cosa della 7, e tu alle 20, poi di solito resti fino alle 8.20, 8.25, eccetera, quello che è. Però ogni tanto hai la fissazione, infatti non ti sento più, di, come mai ti scappa alle 8? Cioè proprio alle 8, tra le 8 e le 8.10 vai in bagno, ma come mai? Non ho capito. Cioè che no, c'è una cosa fissa, che cos'è? Perché accumulo tutto il giorno molta acqua, io bevo anche durante, perché adesso ad esempio, ti faccio sentire, vedi, guarda. Che cosa? Bevo acqua per tenere le corde vocali. Sì. E ho un'autonomia relativa, e quindi dopo tre cioè ore. Cioè alle 20 in punto ti scappa sempre. 19.58, dipende. Insomma, poi, 20.01, 20.02, sì, eccetera, io l'ho proprio un e come mai ti trattieni 6-7 minuti? Non ho capito, perché poi è lunga la questione. Cioè, la questione è lunga. Perché e lì i bagni dove sono? Lì dove sei alla 7? Cioè i bagni sono distanti. Sono quasi al piano, però magari alle volte sono occupati e quindi devo aspettare con veemenza. Vabbè, ragazzi. Comunque, tu sai che gli italiani hanno paura di andare dall'urologo, no? Te lo voglio dire, tu non credo che hai problemi, hai 40 anni. Te l'ho però detto, io sono tra questi, non ho fatto quella visita. Hai paura di andare dall'urologo, sì, lo sai. Uno su tre praticamente non ci va, Per imbarazzo verso i medici, oppure perché potrebbero venirlo a sapere amici e parenti. Invece, ragazzi, diciamo la verità, a un certo punto, l'ingrossamento della prostata, l'ingrossamento è fisiologico. A partire dai 50 anni. Io recentemente ho fatto un controllo, per adesso tutto a posto. Famoso PSA, come cazzo si vedo chiama? Già che le agenzie lo stanno rilanciando. No, quello no, certamente anche no. Il Corriere della Sera, la notizia di Dallas ormai è stata superata da questo. Dal fatto, Cruciani ha fatto un controllo alla prostata, tutto ok. Sì, l'hanno detto le agenzie. Allora ragazzi, però mi dovete andare a cercare un audio del mitico professore Zangrillo, che uscendo l'altro giorno ce lo siamo un po' persi, era abbastanza divertente. Il mitico professor Zangrillo, che è il medico personale di Berlusconi, che praticamente uscendo, quando Berlusconi è uscito dall'ospedale, ha detto: beh, l'uomo sta bene, l'uomo è... E mi pare importante, dice Zangrillo, che si sia preoccupato dello stipendio delle infermiere. È veramente curiosa questa cosa qua. Cioè Berlusconi in questo periodo, oltre 20 giorni di degenza in ospedale, si è accorto che le infermiere, per il lavoro che fanno, eccetera, eccetera, guadagnano poco, esatto, bravo. Dunque, Berlusconi, paladino delle infermiere. Immagino quanto sono incazzati. Cioè, potrebbe fare meglio Berlusconi dei sindacalisti, per esempio, no? Cioè, sicuramente potrebbe arrivare Berlusconi dove i sindacalisti delle infermiere non sono mai arrivati, per esempio. Giusto, anche questo è giusto. Cioè, aumento dello stipendio a favore delle infermiere che fanno un lavoro infame, e Berlusconi dice: io mi sono sorpreso, così riporta il professore Zangrillo, di quanto poco guadagnino queste infermiere. Cioè, non lo sapeva da prima. Sembra di no, poi sai, che ti devo dire. Abbastanza incredibile. Tu dici è sempre stato circondato da infermiere, no? Vabbè, no, dico appunto, cioè, adesso non... Allora, io non mi dico che cos'è che ha detto il professore Taormina, io proverei a chiamarlo, Che dici, lo chiamiamo? Il professor Taormina. Ma bisogna per forza, quello non vuol parlare con me poi. Lo so che ogni volta, però io ci proverei, perché ha detto, ha già sentenziato il professore. Ha tu già che sentenziato. Cosa, sulla vicina di Fermo? Sì, ha detto l'arrestato di Fermo, agito per legittima difesa. E che ne sa lui? E che, non lo so, solito immigrato che violento. Che indagini ha fatto? Il solito immigrato violento, ha detto. Vabbè, chiamiamolo, dai ragazzi, chiamiamolo, dai. Fatemi il numero del TAO, Tanto ce l'abbiamo là, sempre sotto mano. Pronto? Avvocato? Chi è? Sono Cruciani, ciao, come stai? Oh, ciao, tu come stai? Ma non c'è male, me la cavo. Ti seguo. Senti, ma ho letto che hai scritto una cosa su Twitter: l'arrestato di Fermo ha agito per legittima difesa, Giovanardi aveva ragione. Non tanto. Il solito immigrato violento e Alfano sempre inopportuno. Come ha agito per legittima difesa, scusa? C'è una dichiarazione di un testimone oculare, il quale... dice che appunto c'era stata un'aggressione nei confronti di quello che è stato arrestato. Ma questo è da verificare. Secondo quello che dice questo qua. Tu già sei arrivato alla conclusione: agito per legittima difesa. Siccome è scritto pure il solito immigrato violento. Appunto.

Io volevo dire questo, sicuramente c'è stata una provocazione da parte di un coglione, di un molestatore, anche su sfondo razzista, sicuramente. Allora? Però io vorrei anche ragionare sul fatto di una reazione eccessiva, cioè l'ignoranza di un razzista o di un provocatore coglione va combattuta secondo me con un po' di intelligenza, con un silenio si passa avanti. La moglie però, adesso amico mio, adesso noi queste ricostruzioni le abbiamo fatte sulla base di cose, di alcune testimonianze, altre testimonianze. Per esempio, c'è chi mi ha scritto: ah, quella che avete sentito ieri non è credibile, è una pazza, è una mitomane. Ragazzi, ma non è che l'ho sentita io, l'ha sentita la polizia, poi l'abbiamo sentita pure noi, è stata intervistata perché c'è chi mi ha scritto, hanno scritto pure sul web: guardate chi è questa, una volta ha accusato i cinesi, non so di che cosa. A me non mi interessa, questa qua è stata sentita dalla polizia, c'era un articolo su un giornale, l'abbiamo sentita noi, ha descritto quello che ha visto secondo lei, punto e basta. Non sto dicendo che quella è la verità, abbiamo sentito una che sostiene di essere stata lì, è stata sentita anche dalla polizia, addirittura sostiene di essere stata chiamata dalla polizia, che questa qua sia una mitomane, una matta, cioè, lo devo accertare io? No, lo accerterà la polizia. Noi abbiamo offerto una testimonianza, punto e basta. Non è la verità scesa in terra questa di questa signora là, è evidente. L'unica verità qui è che un uomo è morto. Ma questo lo sappiamo, dai, questo non c'è, non è che ci vieni dalla provincia di Pescara a dircelo, dai, forse. Io volevo semplicemente no, dire non devi dire più niente, ciao. Pronto Radio Cloaca Massima? Hai la zanzara? Vabbè, uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La Zanzara. Cruciani, sei una testa di cazzo, perché è come se tu andassi in giro, non dico con tua moglie perché non te ne frega un cazzo, ma con tua madre, incontri uno e gli dice: vecchia troia faccia di merda, se tu non reagisci perché sei un codardo, e mi sa che tu lo sei, perché se ti offendono così la moglie, chiunque reagisce, testa di cazzo. Cruciani, qual è la differenza tra uno che ti entra in casa e tu dici che ha il pieno diritto di sparare, di reagire, e uno che ti offende per strada in modo aggressivo e tu reagisci? Perché nel primo caso hai diritto di farlo e nel secondo caso non hai diritto di farlo? Vabbè, amico mio, con tutto il rispetto, questa è una puttanata, eh? Totale. Cioè, è una puttanata. Sono situazioni completamente diverse. Cioè, non mi puoi attaccare... perché sostengo fossero vere le ricostruzioni che quello lo insulta e l'altro piglia il palo, fossero vere queste qua, non è la stessa cosa che uno entra in casa e quell'altro reagisce, cosa c'entra? Quella è una situazione diversa di violazione della proprietà privata, ma uno la può pensare come vuole. Senti Sallusti che non riesce a pronunciare una parola, senti. Per i danni economici che provoca, ma per la destabilizzazione, via! Destabilizza, perché destabilizza le istituzioni. No, ma risentiamo ancora, la parola è destabilizzazione. E lo è non tanto per i danni economici che provoca, ma per la destabilizzazione, via! Destabilizza, perché destabilizza le istituzioni. Sempre Sallusti, quando riacquista, dice: non era razzista, picchiava chi capitava, cioè il ragazzo, quello di fermo. Però insomma, non è che se uno picchia chi capita, magari è anche razzista, no? Cioè, oltre a tutto. Non vedo nessun episodio di razzismo, ha visto un uomo di colore e gli ha detto che è un negro di merda, ma non mi pare razzista. Ma scusi, Sallusti, come fa a dire... Cioè, voi come titolate domani come titolate, scusa? È stato probabilmente lì, è stato Pisapia o Renzi. Ma adesso non è più sindaco di Milano. Beh, allora è stato Renzi, abbiamo trovato una nuova inchiesta lì. Cioè Renzi ammazza. Colpa di Renzi, perché colpa di Renzi. È normale, è evidente, quello che è successo è chiaro. perché questo signore non è che era noto come un razzista, politicamente impegnato, socialmente impegnato, era noto come teppista e aveva già aveva 5 despo e una denuncia per rissa, cioè lui picchiava quelli che di volta in volta riteneva di dover picchiare, che fossero i tifosi della squadra avversaria, quelli del bar di fronte o quello che per strada incontrava e lo guardava male, questo era uno che picchiava la gente. Beh, a parte che è daspo, non despo, quello, cioè è un'altra cosa, però non è che uno che picchiava, non aveva nessuna ideologia, non è vero, era riconosciuto come un estremista di destra, cioè non è così, cioè poi magari lasciamo perdere il razzismo eccetera, non è che se uno picchia la gente in giro non può essere razzista, magari è anche razzista, cioè. Vabbè, dai, Nicola Pisa. Pronto, buonasera. Io volevo anch'io parlare dei fatti di Fermo, ma allora dire una cosa, che ognuno può avere, può farsi l'opinione che desidera, però io da ieri mattina che ho seguito la notizia sul Corriere, su Repubblica, vabbè, su allora vari giornali, questo fatto che poteva essere il primo, il nigeriano il primo a usare la violenza contro quell'altro, non è stato evidenziato. Non è stato evidenziato. Non è stato evidenziato, non ce n'è parlato. Io ho ricontrollato anche dopo, ho guardato, ma anche. No, ma non è vero, l'hanno riportato. No, assolutamente, se fate una ricerca non è così. Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito. Beh, che cambia un attimo, ognuno può avere la sua idea, però cambia se uno. Ma quella è la ricostruzione, è la ricostruzione che sta facendo la polizia, le forze dell'ordine di questa vicenda. Adesso vedremo, dai, Omar da Bergamo, dai, Omar. Ciao Beppe, dimmi. Saluto anche a David. Sì, allora, poi a David, però io mi chiedo come faccia tu dopo tanti anni a riuscire ancora a spiegare le cose alle persone. No, io non devo spiegare niente, sto facendo uno show radio fuori. È una roba incredibile. Vai Omar, dimmi però, vai. Forza. Ascolta, una cosa velocissima. Settimana scorsa mi è successa una cosa in un bar di vegani, cioè ti spiego cosa è successo. Esistono che pure i bar per vegani, non ho capito. No, allora ti spiego, io sono entrato in questo bar con un collega, zona sud di Bologna. Ma non è che esistono i bar per i vegani? Cioè, come? Non esistono i bar per i vegani? No, ti sto spiegando, entro in questo bar e trovo brioche per vegani con tutta una serie di ingredienti, biscotti, con tutta una serie di cose. Io ordino 2 cappuccini e 2 brioche alla marmellata normalissime. Sì. E praticamente mi sento, non dico trattato come un imbecille, ma poco ci è mancato, no? Io non mi ero accorto che ero entrato in un vegan bar, qualcosa del vabbè, genere. Capita, ognuno, questo però è questo legittimo. Ma questo è una serie di mare, anzi, cioè, questo va bene, c'è gente che fa nascono i soldi. Nascono nuove imprese. Cioè, fai i soldi con questa roba qua. Ma io non sto discutendo quello. E allora? Non ho nulla con nessuno. No, ti dico semplicemente che chiedendo una semplicissima brioche alla marmellata normale, mi sono sentito, cioè mi sono sentito trattare come un imbecille. Vabbè, è normale, ma effettivamente se tu non hai visto prima che era un vegan bar, ma difatti io non ho visto, un po' tonto sei, dire, cioè, puoi dirmi semplicemente. Vabbè, Omar, ciao, Andrea, provincia di Monza, vai. Andrea. Pronto? Dimmi. Niente, io volevo dire che gli stessi politici che adesso hanno condannato l'uccisione del nigeriano sono gli stessi che hanno legittimato Calderoli a dare dell'orangola a Chiang. Lo stesso Migliore, che adesso si trova nel Partito Democratico, il suo stesso partito ha dato la legittimazione a Calderoli. No, ma anche lui credo che l'abbia votata questa cosa qua. Adesso da solo in privato, questa povera da solo in privato, tramite avvocato, sta cercando di avere un po' di giustizia. Parenzo, di qualcosa, perché Calderoli ha degli incarichi istituzionali, noi abbiamo questa gente come esempio. Adesso condannano questi qua. Guarda, questa è una puttanata, perché questo qua non ha preso. Perché tu perché tu non le dici di puttanate, tu non le dici. Ma che c'entro io? Mica faccio il politico io. Di qualcosa. Ma che stai dicendo? Ma che dici? Ma che dici? Che dici? Cosa dici? Ma non è che se benissimo. Il Parlamento. E allora che cosa succede? Dare l'orango alla gang, e allora che fa? La gente diventa razzista perché Calderoli dà l'orango alla gang? Ma tu pensi che gli italiani siano deficienti? No. Allora l'ho detto già ieri sera. O i politici. Ma quando mai? O i politici sono. Ma scusa, ma gli italiani non hanno questa scarsa considerazione della politica. Allora perché dovrebbero seguire Calderoli che dice orango alla gang? Siccome considerano i politici delle merde, dei sanguisughe, dei falliti, della gente che non fa niente, eccetera, eccetera. Questo è il sentimento comune. No, però succede un'altra cosa. Succede questo, che appunto uno, sentendo che le istituzioni. Ma se la credibilità così della politica è zero, ma che credibilità vuoi che abbia Calderoli che dice orango alla gang? Dai, su. Che è il vicepresidente del Senato, ma non cambia niente. La gente sputa in faccia ai politici. Figura che gliene frega se Calderoli dice ma che. Scusami, ma io mi aspetto da chi ne sa più di me di usare un linguaggio. Ma chi te l'ha detto che ne sa più di te? Questa è l'idea che uno ha della politica come qualcosa che dovrebbe. In quel caso mi aspetto che chi è classe dirigente non usi il linguaggio del bar. Ma cosa c'entra? Dai, su, ma non c'entra nulla, dai. Cioè, su. Portare nelle istituzioni il linguaggio della strada e del bar è stata la colpa più grande della Lega di altri partiti. Ma non dire cazzate, non c'entra niente, dai. Perché su. Sdogana qualunque cosa, ma non sdogana è vero. Il fatto che, scusami, il bambino di scuola, ad esempio, delle elementari, delle medie. Cosa guarda Calderoli? Sente, Calderoli ha detto orango a quella, allora. Ma se capisce che anche quel linguaggio lì è di uso comune, allora non avrà nessun problema di insultare anche il suo compagno, diciamo, magari, ma non diciamo stronzate, ma non diciamo, ma tanto lo dice anche Calderoni, ma non diciamo stronzate, non è così, dai, su, non diciamo stronzate, dai, ciao. Cruciani, lavati, zozzo. La Zanzara. Allora, caro Parenzo, con noi il neo responsabile della sicurezza e immigrazione Lega Nord, da un po' di tempo, in realtà da qualche giorno, Roberto Marcato, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come andiamo? Capito? Cioè, Marcato. Benissimo, grazie, benissimo. Responsabile immigrazione e sicurezza della Lega Nazionale. Responsabile immigrazione e sicurezza, perché per te è come mettere, che ne so, cioè. No, ma che cos'è? Uno sceriffo, che roba è? Una, responsabile di immigrazione e sicurezza, cioè, i partiti hanno i loro, cosa vuol dire? I loro incarichi, responsabile di immigrazione, responsabile sanità, responsabile, che ne so, trasporti. Responsabile di immigrazione e sicurezza. Si è un Marcato, Roberto, perché che c'è di strano? Non ho capito. Perché cioè, secondo te il migrante che ad esempio viene dall'Africa subsahariana, sapendo che il responsabile dell'immigrazione e sicurezza della magari si mette paura, è un deterrente e non viene. Magari si mette paura. È una cosa comica che state raccontando. Ma no, comica, è un incarico che ha avuto. Tu sei. Vedono Marca in l'Africa subsahariana. Potrebbero, no? potrebbero dire, vedendolo in faccia, certo uno non è. Oppure nello Yemen, in Eritrea. Ma in se Eritrea, tu lo incroci per strada, Marcato, non è che dici. Non è che. In Eritrea dicono: ah no, cazzo, non andiamo in Italia perché è responsabile della sicurezza e dell'immigrazione. Ci sono zone dell'Eritrea dove effettivamente. Se tu diffondi. Cioè, scusa, Roberto. Esatto, Roberto, perché no? Perché non mandi la tua foto da quelle parti là? Potrebbe servire a dire. Stiamo organizzando come partito. Questo potrebbe servire moltissimo. Questo è un ottimo deterrente. Dice: no, cazzo, no, in Italia non andiamo. Sicuro. Vabbè, allora, Marcato, a proposito della vicenda di Fermo, invece, Marcato, tu hai scritto una cosa. Hai scritto una cosa. Che mettendo sullo stesso piano Chloe Govoni, che è una signora che è stata trucidata da due rumeni durante una rapina in casa, e il caso di Emmanuel, cioè dice bisogna pregare per tutte e due, il governo dovrebbe essere presente sia per l'uno che per l'altro. Ora, sono due cose diverse però, o no? Io francamente non trovo questa differenza, nel senso che mi piacerebbe vivere in un paese dove il governo, se di notte arrivano due animali dentro la casa di un'anziana inerme, la massacrano di botte, d'accordo? La massacrano di botte, e questa muore, io vorrei vedere il governo che è presente al funerale di questa donna, perché è un fatto gravissimo, ma davvero gravissimo. Ho capito, ma sono due fatti di cronaca, il governo secondo me non dovrebbe essere presente a nessuno dei due. Non capisco per quale motivo ci sia questa forte una sorta di frenesia quando c'è di mezzo un immigrato, per cui probabilmente c'è un po' di coda di paglia. Se succede qualcosa a un immigrato bisogna subito, immediatamente fare la fila per dire noi condanniamo, noi saremo presenti al funerale. Secondo te non è un atto di razzismo quello che è successo? No, è un atto di razzismo quello che fa il governo, perché qui l'unico elemento discriminante è il colore della pelle. Se a morire fosse stato uno di Forlì, se ne sarebbero magari sbattuti, difendeva la propria morosa perché qualcuno gli aveva detto gallina, cioè, oltre alla cronaca nera nessuno sarebbe andato. Tu dici il governo, se fosse stato un italiano vittima, se ne sarebbe sbattuto. Invece, ma figuriamoci, e perché allora la cronaca nera dei giornali, punto a capo. E invece, siccome è un ragazzo di colore, no, allora c'è, ci deve siccome essere. Siccome c'è l'aggravante razzista, perché gli ha detto scimmia la moglie, allora questo diciamo, è un po' di cambio. Cioè, ma secondo te di chi è la responsabilità di questa vicenda? Perché ma quello... si vede che in Padania non è arrivata la notizia scimmia, completa. Scimmia africana, vattene, è una frase razzista, secondo te, Marcato? Ma scusa, allora, quando dicono a Matteo Salvini, bastardo, devi morire, se lui reagisse quello... a sprangate, allora sarebbe giustificato. No, dobbiamo a parte che conto, è da chiarire ancora, qui, questa cosa qua, è ancora da chiarire. Infatti, allora, supponiamo che le cose siano andate così come ce le racconta. Cioè, che quello ha preso il palo, ha reagito, eccetera, eccetera. Ma allora, vorrei capire per quale motivo, allora, se un bianco dice scimmia a una ragazza di colore, si è legittimati a sprangare, se invece qualcuno lo dice a Marcato o lo dice a Salvini o lo dice no, ci sono le attenuanti del caso, perché no? Ma chi è che fa questi esempi? Io non ho capito, ma chi è che fa? Guarda che quando noi facciamo comizi nelle piazze, io sono costretto ad andare via scortato, perché gli amici dei clienti sociali ti minacciano, ti dicono di tutto, dicono delle cose che sono irripetibili, però lì, come dire, nessuna prende posizione, non ho mai visto. Cioè, gli italiani sono, tu dici, gli italiani sono discriminati? Assolutamente sì, qui l'elemento, come dire, che ha attirato l'attenzione è che la donna è un uomo di colore, punto. È solo ma questo. Ti credo. Vabbè, quello perché è quello che passeggiava per strada e quello gli ha detto scimmia africana. Perché invece, se era un'italiana e qualcuno l'avesse offesa perché. Sovrappeso o troppo magra. Vabbè, adesso non è che è pieno di immigrati moroso l'avesse avesse preso una spranga. Beh, ma ogni episodio è diverso, no? Che cosa? Ma il problema è che ogni volta che si tratta di una persona di colore. Io voglio capire se secondo te la parola scimmia africana vattene è una cosa razzista o no? Oppure se è semplicemente per te una cosa come dire cicciona? Come dire ciccione a Marcato? È la stessa cosa, perché uno che offende una cioè dire ciccione di merda Marcato è uguale che dire uguale. Beh, insomma, adesso è meno grave, non ho capito. No, ma è sempre un'offesa. Il razzismo, diciamo, la questione dei neri ha avuto nella storia dell'umanità un peso diverso rispetto a quella degli obesi, diciamo, no? Ci sono bambini che si sono suicidati perché qualche cretino a scuola li offendeva per l'aspetto fisico. Ma per te il razzismo non esiste. Che non vanno più a scuola perché ci sono dei fenomeni che le offendono, mettono le foto sulle chat. Allora, capiamoci. Non è che l'offesa. Senti, Marcato, ma esiste il razzismo in Italia o no? Questo non ho capito ancora. In Italia esiste il razzismo o no? Oppure non ma siamo il paese più accogliente del mondo. Ma ecco, stiamo parlando. La Chiang dice che voi siete razzisti. Paese... La Chiang dice che la Lega è razzista, che Salvini è razzista. Infatti, siamo un paese così razzista che lei, che non potrebbe fare il ministro da nessuna parte al mondo, lo fa in Italia. E dice anche che se non avesse la scorta, dice anche. E fai il ministro. Qui sei nero e fai il ministro. Se questo è il paese razzista. Dice sei anche nero e fai il ministro. Lerner la vorrebbe di nuovo ministro. Ma comunque. Beh, certo, ottimo, anch'io. Se lo dice Lerner, siamo. Scusami, Marcato, ma la Chiang ha anche detto che senza la scorta rischierebbe. Cioè, senza la scorta rischia. Rischierebbe. Sì. Cosa? Se lei dice che torna a fare il ministro, rischia che qualcuno. Possa andare in escandescenza per come l'ha fatto. Lei dice lei... Qua, se io lo dico che lei ha fatto schifo come ministro, c'è ovviamente. No, ma se voi avete scatenato un odio nei confronti dell'ex ministro. Razzismo, no. No, un incapace, punto. Lei dice che senza la scorta per strada rischia, cioè rischia ma di. Ma chi se ne frega della Chiang? Dice che rischia, ma questo è responsabile della sicurezza. Ma sarà vero che rischiano? Bisogna togliere. Serve la scorta o no? Serve la scorta o no? Ma perché? Ma perché? Ma che ne so, la Chiang sia attenzionata. Dice che ha la scorta perché non la decide Marcato, ma la decide la prefettura, per fortuna, e non Marcato. E infatti vediamo che la prefettura si preoccupa ogni volta che arriva, è venuta anche a Padova, non c'è stato nessun problema. Senti, vogliono dare la cittadinanza italiana alla moglie di quello morto. Subito va data. La cittadinanza italiana saltando tutte le procedure, eccetera, eccetera. Perché? Che ne so, io Alfano gliela vuole dare, mica gliela voglio dare io, a me che me frega. Essendo lei una rifugiata, il rifugiato andrebbe, dice la parola stessa, rifugiato. No, però questa è una cosa diversa, protetto. Lascia perdere la protezione, questo è un altro discorso. Allora vogliono dare la cittadinanza, sei d'accordo o no? Ma perché qual è il merito? Qual è il merito? Non ho capito. No, merito no, è morto il marito. Allora, la cittadinanza in fretta si dà perché c'è un merito. Qual è il merito? Che è morto qualcuno? Allora la cittadinanza, casomai, la dai a chi è morto. Dunque tu non gliela daresti alla cittadinanza? Io no, assolutamente. Cioè, però faccia l'iter normale. E ha donato gli organi, pare, cioè lui, quello che è morto, no? Perché sì, ecco, anche quando si dice ha donato gli organi, perché questo deve essere, è eclatante, perché è di colore, è questo razzismo. Ma no, è eclatante, no, ha donato gli organi. Sono organi neri, il cuore è rosso per tutti, sa. Grazie, non è nero. Grazie, Parenzo. Ma li piglieresti gli organi? Marcato, se un tuo familiare avesse bisogno, li piglieresti quegli organi o no? Ma certo, che domanda è? Ma è una domanda, li piglierete quegli organi se avessi un tuo familiare? Ma come? Io, se dovessi donare gli organi, spero più tardi che è possibile, posso, quello non c'è dubbio. Non mi preoccupo del destinatario, se è bianco, cioè, nero. Senti, giallo, che ne pensi di Vauro, che ha raffigurato Salvini con un sporco di sangue, eccetera? Io ho risposto al suo tweet dicendo semplicemente che quelle vignette nei paesi a cui lui fa riferimento non potrebbero vederle. Quali paesi? Nei paesi islamici, nei paesi musulmani, riferimento, nei paesi quello africani, italiano. Quella vignetta fatta così non potrebbe essere pubblicata da nessuna parte. Cioè Salvini sporco di sangue praticamente. Ovviamente è una porcata incommensurabile, sono quelle cose anche... Va bene Roberto, ciao, a presto. Ciao. Ma come? Qual è il fine di questa trasmissione? Il fine di questa trasmissione è l'orgasmo. La Zanzara. Cruciani, io sono stato bocciato in seconda media, eppure ascolto la Zanzara. Quindi va bene essere bocciati. Mia mamma è una vegana animalista che ti odia, ma ieri tornando a casa alle 7 sono entrato in casa di nascosto e stava ascoltando la Zanzara. Al posto che andare a rompere il coglione Emilio Fede che con i suoi soldi fa il cazzo che vuole, ditelo alla badante che piglia uno stipendio e all'autista che prende un altro stipendio, va? Che questo butta via i soldi, lui fa che cazzo vuole con i suoi soldi, non rompete i coglioni, fa girare l'economia, dà lavoro alla gente, ai ristoratori, a tutti, non rompete la minchia. A casa dei suoceri, lavandino water, lavandino tutta la vita, pisciata feroce. A Crucià, ultimi preparativi per il viaggio, 4 amici, 500 km andata, 500 km al ritorno, destinazione confine Italia-Austria, weekend a Mignotte. Allora io prenderei WhatsApp di un'ascoltatrice che abbiamo mandato Parenzo all'inizio, perché voglio provare a fare una cosa. Il WhatsApp che è arrivato, il messaggio che ci è arrivato è esattamente questo. Te l'ho proposto all'inizio della trasmissione, sempre sulla vicenda di Fermo, tutto il casino che ha scatenato, la parola razzismo, eccetera, eccetera. Ma quante storie per questo nigeriano! Gli hanno detto scimmia, e fra l'altro è anche vero. Non doveva prendere un palo e reagire, doveva rispondere a parole. Gli ha detto male perché ha trovato uno più forte di lui. E basta, no? Allora, chiamiamo, chissà in che situazione è, parla tu all'inizio, parla tu, capito? Ok. Pronto? Salve signora, lei è la signora razzista? No, scusi, ma lei chi è? Io sono Parenzo, Radio 24, La Zanzara, buonasera. No, guardi Parenzo, sono molto contenta che lei mi abbia chiamato. Ecco, io no, invece, lei deve... Ascolti, io non ho detto che è giusto dire scimmia. Lei ha detto che ha fatto, che è una scimmia e che ha fatto bene, quindi è una reazione che doveva mettere in conto. È morto, allora la fine è morto. No, adesso dovrebbe vergognarsi, chiedere scusa a un milione di immigrati. Guardi, io non chiedo scusa proprio a nessuno. E vergognarsi delle porcherie che ha pensato e detto. Perché guardi, pensato... io mi sono anche abbastanza contenuta perché avrei voluto dire delle altre cose. Ah, e cosa voleva voglio dire solo in più? Dire che se io passo e mi dicono cotta, perché magari potrei essere una cozza, non sradico un palo della luce e lo do in testa a chi me lo ha detto. Ma che c'entra questo con la... Ho capito? Che no, c'entra. Che c'entra questo col fatto che è giusto dire scimmia? Che c'entra? Se lei è una cozza, è una cozza e sono problemi suoi. Appunto. E se quella è una scimmia, è un problema suo. La scimmia è un insulto razzista, lo capisci o no? Ma non è un insulto, perché le scimmie sono anche molto carine. Ma non è un insulto dire a un immigrato di colore scimmia? Ma assolutamente no, anche perché deriviamo da scimmia. Ah, non è un insulto dire scimmia? Io non credo, cioè c'è un insulto molto maggiore. Ma non credo, Lorenzo, lei mi sembra anche un po' froce in questo momento. Come dice, cara? Dico, mi sembra anche un po' froce. Ah, eccola qua la razzistella, quindi scimmia si può dire, poi frocio. Non credo, lei mi fa tutti i versetti come un frocio. Avanti, di frocio, anche avanti, dica ancora, poi peggioriamo la sua situazione. Scusi, Lorenzo, ma che va cercando? Mi faccia capire. Andiamo avanti, aggravi la sua situazione, poi ebreo ancora. Ma niente, guardi, Lorenzo, che non mi fa mica paura. Ma anche a me fa nessuna paura, infatti l'ho chiamata, chi se ne frega. Paura a chi? A una razzistella di provincia, secondo lei? Guardi, di provincia? No, perché io sono nata e vissuta a Roma e di una provincia sarà lei. Di provincia proprio. La provincia mi risulta, io sono nata a Roma, non credo di essere di provincia. Di provincia, lei, di provincia rispetto al mondo, rispetto alla globalizzazione. Una provincia, rispetto... una provincia, allora non lo so, sono una razzistella. Quindi lei non prova alcuna vergogna, neanche in famiglia, così c'è tranquillamente. In famiglia, ma quale vergogna? Ma di che cosa devo provare vergogna? L'hanno abbandonata tutti alla fine. No, guardi, io ho una bellissima famiglia, lei manco se l'immagina. E la sua famiglia non si vergogna di lei? Ma assolutamente, perché si vergogna? Avere una razzista in casa. Ma guardi, ma quale razzista? E lei cosa insegna ai suoi figli? Io non ho i figli. E ai suoi nipoti cosa insegna? Adesso nemmeno, non avendo i figli. Ma che sta succedendo? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con una razzista sto con chi stai parlando? Ma chi avete chiamato? Ma questo gli sarebbe, Luciani? Ma chi avete chiamato? Scusa che io sono arrivato adesso. Chi avete chiamato? Non ho capito. Ma mi hanno chiamato, ho lasciato ieri un messaggio in segreteria, quindi Parenzo mi sta insultando. No, insultando. Parenzo, che stai facendo? Non ho capito. Io un palo della luce e aspetta. Aspetta, mi prendo le offese. Scusi signora, scusi signora, chi è, scusi signora, lei è quella che ha detto ma in fondo scimmia è vero, quante storie, quante storie per questo nigeriano, gli ha detto male perché ha incontrato uno più forte di lui, queste cose qua. Sì, sono io, ma avete imparato a memoria, ho fatto una dichiarazione che va colpito. Avete imparato a memoria, no, ma come mai scimmia secondo lei è giusto? Questo no, non ho detto, guardi, io non ho detto che è giusto. L'ho sentito pure io questo messaggio adesso. Ma non ho detto che è giusto. Beh, come? D'altra parte, che cos'è? Una scimmia? Questo senta, ha detto. Mi scusi, non mi sembra un'offesa così. Quello gli ha detto scimmia africana vattene. Così gli ha detto scimmia africana vattene. Io non so, gli ha detto scimmia, mo africana. Così scimmia, gli ha detto scimmia africana vattene. So. Vabbè, scimmia, ho capito. Scimmia è una, scimmia è una cosa. Ho capito, ma per lei è normale? Sì. No, non è normale, ma non mi sembra la reazione normale. Questo è tutto da dimostrare, naturalmente. No, tutto ancora... da dimostrare, perché uno che sradica ma un palo della segnaletica per darlo in testa a un altro, ma quello bisogna perché vedere. Ti hanno detto scimmia, quello... mi pare esagerata signora, come reazione. Però perché signora, si nasconde dietro le cose? È inappropriato, perché signora non è il termine no, da utilizzare. No, perché si nasconde lei dietro? Senta, io mi nascondo. E lei si nasconde io un po', perché secondo me lei pensa anche peggio di quello che ha detto. Può darsi, può darsi. No. E allora perché non dice esattamente quello che pensa? Così almeno. Lo sto dicendo, l'ho detto quello che pensa, ma ci avete addirittura chiamato. Cioè, lei dice che la colpa addirittura è dell'immigrato. Questo io è il punto. Dico che non è la colpa dell'immigrato. L'immigrato ha avuto una reazione esagerata. Se non era nero era meglio. Se non era nero era meglio. Ma se era nero, verde, giallo, ma se io passo e uno mi dice cozza, non è un buon motivo che mio marito per cui mio marito. Prenda un palo della luce e glielo dia in testa, cioè, ma per cui gli ha detto male alla fine. Gli ha detto male perché ha beccato uno che era più forte di lui. Ha detto male a lei, signora. A me mi ha detto male. In fin dei conti, chi se ne frega, dice, no? Poi alla fine, chi se ne frega? O di no? Che cosa? Del fatto che questo è morto. Ma non è, guardi, ne muoiono tanti di bianchi uccisi da degli immigrati. Ma a me pare è morto un poliziotto. Ne muoiono dei bianchi uccisi dagli immigrati. Ma ultimamente un poliziotto non è stato ammazzato? Ma dove? Ma che dice? Un carabiniere non è stato ammazzato da un immigrato? Ma adesso non lo so, può darsi pure che sia stato ammazzato negli ultimi anni. Ma che dice, signora mia? Signora, chiedo scusa non per l'uso della parola. Ma perché non bianchi neri? Perché lei fa questa distinzione bianchi-neri? Sì, è così, guardi, mi confermano qua tutte le mie amiche razziste. Siamo tutte razziste. Sì, mi confermano che è stato

peso 53 kg. 53 per gamba però. Ma direi proprio di no, caro, 53 kg. 53 kg, insomma, seno, tette. Tutto il giorno dentro il negozio a guardare fuori dalla storia, dice, guarda, c'è un immigrato e mangia le lasagne. Negozio, guardiamo tutto il giorno. Siamo le donne che fate niente dalla mattina alla sera, siete lì a covare odio tutto il giorno e a parlare con quattro bisbettiche lì razziste, dai. Invece tua moglie che cazzo fa tutto il giorno, parente? Un'immagine terribile. Perché, la moglie? Mi rispondi che cazzo fa tua moglie tutto il giorno? Io faccio, fa la giornalista come me, insomma. Tua moglie fa la giornalista come sì, te? Sì. Non sta lì a ciabattare. Ma che ne pensi di quelli che arrivano con i barconi? Guarda, io penso che non dovrebbero venire, se non li andassimo a prendere, come dice il buon Feltri. Solo una volta non verrebbero più. Ho lo stesso pensiero di Feltri. E tolgono lavoro agli italiani, secondo te, eh? No, non rubano il lavoro agli italiani. No, questo non l'ho mai pensato. No. Anche perché non lavorano, stanno davanti ai supermercati a chiedere l'elemosina. Ah, per carità. Non rubano il lavoro agli italiani. Ma lì ogni tanto davanti al negozio arrivano a rompere i coglioni? No, io ho un sacco di amici che vengono, mi danno una mano quando c'è da fare i lavori pesanti, vengono, mi aiutano, anche perché io sono una donna. Beh, certo. Vengono a dare una mano, io sono una marea di amici di. Com'è che stai da sola, però, scusa, 59 anni, non c'è un fidanzato? Non c'è no, non sono fidanzato, c'ho un compagno, come non ho un fidanzato? Ah, c'è il compagno, sì. Certo, c'è il compagno. Assolutamente sì. Lui cosa si è arruolato nella Wehrmacht, il fidanzato? Ah, il mio compagno è un... Vuoi sapere che lavoro fa? No, beh, immagino. Va bene, Marcella. Dimmi. Ciao tesoro, ti saluto, ciao. Ciao, caro. Buonasera, è la Zanzara? Sì, guardi, siamo quelli del TSO, ci può passare Cruciani? Grazie. La Zanzara. Parenzo, aspetta un attimo con Mauro da Mantova, dai, lo fai incazzare subito, incomincia... T'ammazzo, ciao. Cioè, fagliele dire le sue cazzate, no? Così uno si sente gratificato e dice, no, pensa a te, io sono un genio, no? Se lo fai subito sbroccare, finisce lì, cioè... Fagli esprimere i suoi concetti un attimino, anche se concetto è un po' una parola grossa con Mauro da Mantova. Per favore, datemi il numero dello spacciatore di Mauro da Mantova. Fammi capire, Cruciani, un ragazzo nigeriano viene insultato per strada da un fascista e tu per tutta la puntata insinui che la colpa sia del nigeriano perché forse ha reagito? Ma vattene a fanculo, va. Oh, Pareto, ma sei normale? Ma sei normale, Parenzo? Mi trovo in Lapponia, 300 km a nord dal circolo polare artico, e ascolto la Zanzara. Traffico. La Zanzara. Sto andando a dare il mio ultimo esame, podcast nelle orecchie, e che la Zanzara sia con me, siamo al top. Speriamo sia andato bene, fratello, speriamo sia andato bene. Luca Telese con noi, ciao Luca. Peppina! A dove cazzo sei? A Polignano, dove sei? Un saluto speciale. No, però aspetta, parla bene, avvicina bene sto cazzo di dai, non mi fare Parenzo, dai. Non mi senti bene? Sì, dai, vai. Dobbiamo fare un saluto speciale a un ragazzo non vedente che ti ascolta da sempre, Pablo. Bene, bene, salutiamo Pablo non vedente di Polignano a mare. Allora, andiamo, direi, con che andiamo? Ah, no, sì, peggio di Radio Padania, vai. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ascoltatore di Radio Padania, vai! Chi ha votato per questo sindaco gli piacerebbe una bella tenda con dentro queste persone che cagano, pisciano per strada, fanno tutte le loro cose, si lavano, eccetera. Quelli che hanno votato per Sala, lei dice. Chi ha votato a Sala gli piazzerei davanti la tenda e la gente che caga e piscia per strada. Vai. Guarda oltre i monti. E a Milano hanno rivinto questi, che stanno, anzi, hanno riempito Milano di Negri e compagnia bella, e i milanesi se lo godono. A Milano hanno rivinto quelli che riempiono la città di negri. Quanto è bella la tua terra! È un popolo di deficienti, ci hanno governato tutti, lo prendiamo in quel posto e buonanotte suonatori. Dio i cinesi, che cazzo ti devo dire? Io userei un lanciafiamme per tutta sta gente, figuriamoci. Userei il lanciafiamme coi clandestini. Padania bella e libera. Disgustata veramente, italiani svegliamoci, cosa stiamo facendo? Stiamo qui a aspettare che vengano qui a decapitarci anche a noi? Qual è la misericordia che sta predicando il Papa? Smettiamola, vergogniamoci di questa Italia, ma vergogniamoci veramente, io sono stufa di sentire questa gente che parla a bandera. Ma lo sai Luca, io tutti questi ascoltatori in realtà li adoro, no? Questi qua che intervengono a Radio Padania Libera, a Radio Padania. Allora, dove andiamo? Dai, Maurizio, Milano, vai. Allora, secondo me l'offesa scimmia non è un'offesa così grave, anche perché comunque con le scimmie moderne noi abbiamo degli antenati in comune. Questo vale sia per le persone di pelle bianca che per le persone di pelle scura. Però, amico mio, dai. È una cazzata questa qua. No, non è una allora, è una cazzata. Se uno ti dice scimmia africana, vattene a casa. È evidente che è un po' che ti vuole offendere, no? Cioè, mi pare questo non si può discutere. Lascia perdere che questa cosa qua, secondo me, non è da tribunale. Chi se ne frega, se uno ti vuole portare in tribunale, per me non me ne, a me non me ne frega niente. Non porterei mai in tribunale qualcuno per una frase del genere, però è sicuramente viene detto in modo offensivo. No, ma chiedi, viene detto in modo offensivo, ma a mio giudizio comunque non è offesa grave. Ma a parte questo, il signore Manuel, ma se ti dicono scimmia africana vatte, non è che te lo dicono per dirti se è uguale a una scimmia, siamo tutti, veniamo tutti dalle scimmie, te lo dicono in senso dispregiativo. Scimmia, ma è una roba che si utilizzava nel razzismo negli anni 50-60 in America, veniva anche Google. Luca, devi metterti in un posto dove si sente, però se no non si sentono. Io sono vicinissimo. Ecco, così. Google Clan erano simpatici e erano vestiti con lenzuolo bianco che è simbolo del pulito. Diglielo a questo ascoltatore. No, diglielo tu. Google Clan, dai, riabilitiamo il Google Clan, le croci, il sporco negro. Quelli del Google Clan che erano, bello. Che cosa sono? Dei pacifisti, che sono? Maurizio, non ho capito. Ma cosa c'entra con gli anni? Scusi con me. Io personalmente mi sento simile alle scimmie e basta. Ma è questo il discorso. Questo è l'unico punto di verità. Ti senti io lo so e ne vado pure orgoglioso perché so perfettamente che io e le scimmie attuali abbiamo dei pitecci preistorici in comune. E vabbè, Maurizio, ma non è il punto, non è se ma noi siamo. Ma quelli hanno una migliore capacità cognitiva, però. Cioè, ragionano meglio le scimmie di Maurizio, dici? Ma sta dicendo delle trombonate pazzesche. Adesso riabilitiamo Hitler, il Ku Klux Klan, chiunque, dai, corta e sapone. Che in fondo allora, Hitler e il Ku Klux Klan lo sta tirando in ballo il suo collega e io non l'ho neanche tirato in ballo e non vedo le analogie. Maurizio, la realtà è questa, che quel signore là di Fermo ha offeso una persona dicendo scimmia africana vattene. Poi quello che è successo dopo è ancora da vedere. E quello però, vuol dire, quell'elemento là non è che si può negare. Se quelli passano, attraversano la strada e dici scimmia africana vattene, eccetera, eccetera, è un'offesa, lo dice per offendere, no? Cioè, o no? Che lo dica per offendere, d'accordo, però adesso non vorrei dire questo. In ogni caso, no, il signore Manuel, ma come? Se lo dicono questo, a te se che sei bianco, scimmia a tua moglie. Ma mi scusi, strada. Perché se lo dicono a me che sono bianco? Perché sei bianco, appunto perché sei bianco. Ma quindi, secondo lei, i neri sono più vicini alle scimmie rispetto ai perché bianchi? Perché era un modo, era un modo per dire. Se dico ebrei nei forni, non sto parlando di una ricetta di cucina. Sto evocando un fatto storico concreto, capito? L'olocausto. Uno dovrebbe avere l'intelligenza di non prendersela per queste stupidaggini. Vabbè, quello è un altro discorso. Quello si è sentito offeso, non so che è successo. Che sto facendo, mi scusi. Ma lei sa quello che è successo? Lei lo sa? Ovviamente io non c'ero. Allora, zitto. Perché lei ne sta parlando da diversi giorni? Che non lo sa neanche lei. Ma non lo so, io ho sentito le testimonianze e mi sono fatto un'idea. Cioè, poi vediamo. Io mi sono fatto un'idea come lei. E qual è? E qual è? L'idea è che questa persona, il signor Emanuele, dal mio punto di vista, e non c'ero, abbia reagito violentemente in qualche misura per farsi bello di fronte alla moglie. Cioè per far vedere. Ma tu sei matto. molto per far vedere che ha la forza di scacciare con la violenza l'aggressore, sì, e questa sì, è una mentalità sì. primitiva che non accomuna. Ma sai quanti uomini, uomini italiani reagiscono di fronte alle offese fatte a una donna? Lo sa quanti uomini italiani ci sono? Certo, ed è un comportamento primitivo, le sto dicendo, non accomuna soltanto gli stranieri. Quindi abbiamo scoperto che sei anche razzista. No, però questa cosa qua, scusami, però Luca, no, però scusami Luca, questa roba qui. C'era lui con sua moglie che gli dicevano puttana, lui si cagava sotto. Ma lo sa, il primitivo invece ha reagito. Senta, signor Telese, lo sa quante ragione. Volte io sono stato offeso e quante volte le persone mi volevano mettere le mani addosso? Addirittura, che vita fa? Guardi, mi è capitato parecchie volte. Glielo però posso scusami, Maurizio, scusami un attimo. Ora, il punto non è questo. Ma cioè... non capisce, Maurizio, è bellissimo, sta esprimendo uno stereotipo razzista prima dell'altro. Siccome quello è di colore, e hanno offeso sua moglie con un insulto feroce, adesso però è primitivo. No, però lui dice una cosa, Maurizio dice una cosa, però sta dicendo un'altra cosa, Maurizio, sta dicendo che la reazione... È primitivo. No, è uno stereotipo come, razzista, come la reazione... come la reazione di uomini che reagiscono picchiando, cercando di picchiare chi offende le loro donne. Questo vuole dire, Maurizio, o sbaglio? Perfettamente, e questo è un atteggiamento veramente da cavernicolo, sia per quanto riguarda gli italiani che non gli italiani, e questo va stigmatizzato. Anch'io morirò, anche lei, signor Telese, morirà. E beh, con questo. Vabbè, non è che è morto così perché che è caduto per strada. Mi scusi, allora, io adesso non sto dicendo che ha fatto bene il signor Loretta da Roma, ho capito bene. Loretta da Roma, vai, Loretta. Loretta. Sì, mi sento ora? Dimmi Loretta, dimmi, che c'è? Salve, volevo puntualizzare che il povero nigeriano non ha potuto donare gli organi. Vorrebbe donare gli organi, allora? No, non potrebbe donare perché primo, Paretta ha detto che la signora è una rifugiata, in realtà è una richiedente asilo, non hanno neanche... Vabbè, ma quello che ha detto che vuole donare gli organi, che donerà gli organi, poi non so se questa non cosa... Non può donarli, perché non hanno documenti, non ha un po' Vabbè, donarli, ma adesso che cazzo è? Ma adesso, voglio dire, ma qual è il problema? Quella dice che vuole donare gli organi, vediamo se sarà possibile, chi se ne frega poi se i documenti, i controdocumenti, la burocrazia, quello... Va bene, se senza regole... Ma non senza regole, adesso il problema non è quello burocratico di stabilire se uno che è richiedente asilo può donare gli organi o no, immagino che li possa donare lo stesso a prescindere dal suo... No, ma avete sentito la televisione? Non può donare gli organi, per il momento no, la televisione non l'ho sentita perché stavo in trasmissione, può darsi che non possa donare gli organi, vedremo se può donare gli organi o no. Ciao Lore, ciao. Luciani, sei più ignorante di una capra, oppure peggio, sei più ipocrita. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La Zanzara. Caro Luca, mi voglio un po' staccare da tutte queste discussioni che ci sono ormai da 2 giorni sulla vicenda gravissima di Fermo, per carità. Abbiamo praticamente dato tutto in questi 2 giorni, intervistato testimoni, intervistato chiunque, sentito tutti gli ascoltatori, tutti i pareri possibili immaginabili, com'è normale in una trasmissione aperta come questa, sentito i peggiori razzisti che ci hanno chiamato, ma noi siamo per la libertà di espressione anche di queste persone, soprattutto di queste persone, giusto? Che dici? Cioè, è stato un grande anfiteatro in cui è entrata qualsiasi cosa, ma ci sei o non ci sei, Luca? Luca! Oh, ci sei o no? Oh, sì, forte e chiaro, ma quello di stasera era fantastico. Non sono razzista, era primitivo, era negro, per questo sono picchiato. Però bisogna un po' staccarsi da queste cose e adesso in collegamento dalla meravigliosa città di Barcellona, paese libero, la Spagna molto più libero del nostro su molti aspetti, molto più libero del nostro, c'è un signore che è ormai un laico ma che è stato prete a lungo, lo conoscete perché è stato già ospite qui, perché è stato sulle prime pagine dei giornali, dei settimanali, eccetera. Christoph Ciaramsa, che ha scritto un libro, La prima pietra, io prete gay. Rizzoli, buonasera. Buonasera, benvenuti. Come stai? No, benvenuto a te, diciamo noi. Come stai, Christophe? Come stai? Benissimo, benissimo. Allora, caro Christophe, nei giorni scorsi hai detto praticamente un sacco di cose. Una cosa che hai detto è questa. Io ho letto un passo straordinario del tuo libro in cui parli della terrore che ha la Chiesa per lo sperma. Un passo meraviglioso del tuo libro, un capitolo intero in cui hai raccontato questa follia della Chiesa che e purtroppo ci sono ancora persone che si rivolgono, ho letto proprio un intero capitolo quasi, ci sono ancora persone che si rivolgono al Sant'Uffizio per capire se si possono masturbare o no, succede anche ancora nel 2014. No, ma i cattolici non possono masturbarsi mai, ma in realtà ossessione non riguarda tanto, riguarda tutta la sessualità. Sì, no, certo, ma tu, quando eri... sperma, che risponde il Sant'Uffizio? No, no, il Sant'Uffizio, perché Telese non lo sa, Telese non sa questa cosa qua. Il Sant'Uffizio a un certo punto si rivolge un signore perché no, deve... Non svelavo il libro! No, ma l'ho già raccontato questo. No, l'ho già raccontato. Praticamente un signore si rivolge al Sant'Uffizio perché? Perché vuole mettere a mondo un figlio e naturalmente deve far analizzare il suo sperma. Una persona super cattolica e si rivolge al Sant'Uffizio, che devo fare? Dopo diverso tempo il Sant'Uffizio dice no, lei non lo può fare questa roba qua. Io veramente esprimo tutto rispetto per le persone che confidano nella Chiesa, che si fidano di questa istituzione, profondamente credenti e bisogna rispettare la loro fede. Ho capito. Mentre la Chiesa, la gerarchia in realtà sfrutta e gioca la sua politica di potere, di sottomissione su queste persone. Questi giorni c'è il virus Zika. Che è successo? E tutti sanno che quando si torna dall'America Latina con il proprio partner o la propria partner bisogna avere rapporti protetti, assolutamente, per la salute. Sì. E in Spagna, nella televisione pubblica, abbiamo ogni giorno pubblicità: chi è tornato da questi paesi dove c'è Zika, per favore proteggetevi con un preservativo. Sì. E il mio compagno mi dice sempre: ma tu ti immagini in Polonia una pubblicità del genere? È impensabile. Figuriamoci in Italia. Il terrore che è stato infuso dalla Chiesa nelle nostre società cattoliche o di tradizione cattolica è assurdo, è irrazionale. Scusami, Christophe, ma tu usi preservativo nei rapporti? Con il tuo compagno? Questo mi avete già chiesto. No, ma te lo chiedo un'altra volta, lo usi o non lo usi? Ma è importante. Io sono felicissimo nei miei rapporti sessuali. Ma quello d'accordo, ma lo usi preservativo o no? Felicissimo, sì. È un modo per dire che io non sono ossessionato e non ho nessun rifiuto del preservativo, del profilattico. No, meno male. Fa parte della nostra sessualità. È un dono della modernità che abbiamo oggi. Certo, un dono della modernità, assolutamente. Sì, a mio parere dovrebbe essere distribuito nelle parrocchie. Cioè, io arrivo a dire che il preservativo, perché evita le malattie, eccetera, eccetera, dovrebbe essere distribuito nelle parrocchie. Perché difende la vita. Assolutamente. Io credo una cosa a padre Cristo. Cioè, io, siccome sento ormai una luce di radicalità proprio dell'apostata dentro le sue parole, ma perché dice che vuole sposarsi in chiesa? Ecco, perché ti vuoi sposare in chiesa? Cioè, se uno con la chiesa... No, io mai non ho usato formula sposarsi in chiesa, non è neanche mia formula, e mai non userei... Però c'è scritto. L'ho letto dappertutto, sono i titoli. Io sono invece... Io parlo, parlo da teologo, e che ormai noi non possiamo accontentarci come cattolici di stati che finalmente accettano diritti umani di tutte le persone e introducono unioni civili o matrimonio civile anche aperto alle persone omosessuali. E invece che dobbiamo fare di più? E quindi dobbiamo arrivare alla coscienza, e questo in tutta l'umanità e in tutte le sue espressioni, alla coscienza che matrimonio è aperto a tutte le persone e dunque anche ai credenti. No, ma credo che c'entra la Chiesa, però. La propria Chiesa, chi vuole sposare in Chiesa? Chi è credente nella propria Chiesa ha diritto di sposarsi indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. E dunque dici che anche tu, siccome sei credente, Vuoi sposarti in Chiesa. E questo ormai oggi è già la realtà in varie chiese evangeliche, e poco a poco l'umanità e i credenti, i cristiani... Ma non il matrimonio in omosessuale. Sì, sì, sì, certo, Monsignor Ciaramsa, certo, vorrebbe che trans... Tutti quanti si possono sposare in chiesa. Ma non è che io voglio, fra 50 anni ci sarà... Sì, ma anch'io sono convinto, questo è il processo. Io sento però, sapete, le sue parole, succede ormai una contestazione radicale della Chiesa come istituzione. Cioè, mi sembra che lei ormai si sia separato dalla Chiesa, perché dice che è oscurantista, retrograda, propaga... Senti, Christoph, come fai a sostenere... lasciamo perdere questo. Come fai a sostenere che il 50% dei preti è gay? Io parlo delle mie esperienze, se volete sapere, cioè ci sono già gli autori che hanno scritto. No, ma come fai a dirlo tu? La tua esperienza è questa, che il 50% dei preti è gay. Io vorrei che su questo punto sia letto il mio libro. Parlo della mia esperienza e parlo anche di un fatto che è molto triste, che nella Chiesa non abbiamo indagato il campo. E questo è il fatto drammatico. No, ma d'accordo, ma questa cifra qua è credibile, il 50% dei preti è gay, secondo te? Padre Donald Cosen in America parla di 60%. Come? Padre Bernard Cosen, che ha studiato la questione. Parla di 60%. Ah, 60%. 60%. Non Bernard, Donald. Sì, sì, 60. Però scusami un attimo, il problema è che noi non abbiamo dati che sono stati verificati. E vabbè, quello è difficile. Io lancio questo numero e chiedo alla mia chiesa che lo verifichi al più presto. Senti una cosa, la mia chiesa ha dovere di fare i suoi studi. E i pedofili quanti sono secondo te? Il caso Spotlight dice l'8%. Oh mamma mia, questo film è veramente più orribile di quest'anno. Ma quante io sono? Una volta leggevo le statistiche americane che parlavano di 5% delle persone, non di attivi pedofili, ma delle persone potenziali che sentono questa difficoltà, questo dramma, questa deviazione della sessualità. Ma tu ne hai incontrati di pedofili? Qualcuno. Se ho incontrato qualcuno. No, ne hai conosciuti di pedofili, cioè che erano coperti dalla chiesa, che ne so, cioè hai conosciuto uno. Sì. Sì o no? Sì, ma certo, lavoravo in una congregazione che si occupava della pedofilia del clero. Dunque... No, ma ne hai incontrati nel senso che sapevi e hai avuto difficoltà a denunciarli in questo voglio dire. Bene, qualcosa fa parte del mio libro, di questo qui invito alla lettura. Ma no, diciamo. Passiamo a un'altra cosa, dai. Le lesbiche. Ma lascia perdere il libro, non è questo l'importante. Cioè, le suore, le hai conosciute te? Perché è una cosa poco esplorata. Le suore lesbiche, per esempio, ci sono? Ma certamente. Ne hai conosciute molte. Quant'è la percentuale tra le suore? Guardi, il tema delle suore lesbiche è probabilmente un tabù ancora più forte che i preti omosessuali. Ecco, appunto. Ma quante sono? Quante sono? Perché loro sono... No, quante sono di nuovo qui... su questo veramente la mia esperienza è anche molto più povera. Perché un tabù? Perché un tabù più grande? Ah, perché sono doppiamente discriminate. Non sono solo omosessuali, ma sono anche le donne. E le donne nella chiesa sono praticamente qualcosa di inferiore. E le donne ormai sono i maschi mancati, cioè quella parte dell'umanità a cui manca qualche cosa. Questa era la cosa. Senti, un'ultima cosa ti voglio chiedere della chiesa, un'ultima cosa, donne. Ma tu quello che ha fatto Vendola lo approvi? Cioè il fatto di avere un figlio in quel modo? Perché hai detto pure che vuoi avere un figlio. Cioè la procreazione assistita. No, guardate, io sono molto grato a un grande scienziato italiano che è Veronesi. Sì. Che ci ha aiutato moltissimo. No, ma voglio sapere se sei d'accordo con quello che ha fatto Vendola. Io si condivido, può fare un figlio con un io condivido la posizione del comitato di etica Vabbè, ma l'utero in affitto. Ma l'utero in affitto, sì, è un dono di Dio, in affitto, no? Proprio. Sei d'accordo? No, però io non lo chiamo utero in affitto, lo chiamo dono della maternità. Dono della maternità. Ma lo vuoi avere un figlio così? Lo vuoi avere un figlio così o no? Ma guardate, c'è anche la possibilità di adottare un figlio. Lo vuoi adottare tu? Io non direi da solo se voglio adottare o avere figlio o far crescere, perché questo annuncerò con il mio compagno. Lo annuncerai con il tuo compagno. Se un giorno lo vorrò fare. Ti saluto, un abbraccio! Ciao, Christoph, ti saluto. Ciao. Ogni tanto ride. Ogni tanto ride quando si fanno le cose. Si parla di sesso, ride. Non si parla di sesso, ride sempre, pure l'altra volta. E poi ride. Rimanda al suo libro. Ride, rimanda al libro, sti cazzi. Lorenzo da fermo, dai, Lorenzo. Lorenzo, fermo, vai. Dimmi, Lorenzo, dimmi. Ah, ho solo una considerazione, volevo fare sul discorso dell'uomo di colore ucciso. Ma premetto solo che io ero all'estero i giorni scorsi, per cui la vicenda non l'ho seguita proprio nei dettagli. Per cui vabbè, dai, vai veloce, forza. Tu lo sapevi, comunque, lo sapevi che in alcune zone degli Stati Uniti è ancora illegale fare sesso anale? Lo sapevi che il 40% dei peni si curva leggermente durante l'erezione, il 40%, e che il 33% delle donne fa sesso al primo appuntamento con qualcuno che ha conosciuto online? Capito? Porca miseria. Vabbè. Questo è tutto sul sesso, devi andare su Twitter, tutto sul sesso. Vabbè, allora Lorenzo, dimmi. Ma secondo me no, il succo dell'intervento voleva solo essere che effettivamente nelle parole di alcune persone, ascoltatori o gente, esponenti politici, indipendentemente un po' dalla fazione, adesso non voglio fare un discorso politico, ma c'è un fondo di verità. Secondo me oggigiorno c'è un grave squilibrio nelle non è un convegno di sociologia, ti abbandono. Elisa, provincia di Savona, ma non è un convegno di sociologia, perché... Elisa, che c'è? Non mi rompete i coglioni, basta, a lunedì, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.